Jonathan non era quella, capito? Quindi l'ho data, rimettendoci un sacco di quattrini, purtroppo, però gliel'ho data. Anche perché io avevo già 430 e quindi mi tengo il 430 e 440 la volta, perché se mi rilascia a piedi questa volta non lo riparo più, non lo riparo più, perché insomma non puoi continuare a buttarci soldi su una radio del genere. In giro di 2 anni, 2 volte lo stesso difetto, 2 volte. E io sono di quelli che le radio le tiene anche se non parlo, ma le tengo accese. Queste invece mi posso permettere il lusso di spegnerle e tenerle spente proprio, cioè non, invece di là tutte le santi giorni una radio di 4.40 acceso, tutte le altre spente, quella sempre accesa, sempre accesa, sempre accesa. Questo 140 e 4.30 e gli aesi, io ho anche le PT 757, fra già mi hai messo la maniglia tu, già l'hai visto, nuovo nuovo, che uso pochissimo, però sono dei caterpillar, questi non ti lasciano mai a piedi, non c'è nessun problema, capito? Tutto qua. Va bene, questo fra non è l'MC60, questo è l'MC50, che è un grande mago che si chiama Fabrizio, l'ha fatto diventare MC60, praticamente gli ha fatto lo stesso circuito all'interno dell'MC60 e funziona come l'MC60, così è con la posizione, aspetta che non vedo un tattino, che ce l'ha, allora così è in posizione amplificata e così è in posizione normale, senza essere amplificata, non amplificata, amplificata, capito? Però è l'MC50 questo, Sì, sì, ho capito, praticamente ha preso l'alimentazione dalla radio, prende l'alimentazione dalla radio e va al microfono, tutto qua. E poi gli ha fatto il circuito di preamplificazione, perché questo è l'MC50, è il microfono da tavolo del 780, che non è amplificato, però è bellissimo con il microfono nuovo. E me l'ha fatto diventare 60 e va molto bene. A Roberto piace tantissimo, vai Rubi. Sì, sì, è bellissimo, ho detto, è eccezionale. Dimmi un po' qua, ma Fabrizio, Gianfranco, sentito se stasera? No, io non l'ho sentito, se non è all'ascolto, è un agguato, non lo so, ma io non l'ho sentito perché diciamo che in stanza non c'ero, le radio erano tutte spente, le ho accese verso le 6 e qualcosa, ho sentito Giulio con Franco e Gianni, sono entrato a farmi una chiacchierata, tutto qua. Avanti io, Giulio. Uno dei 18 apparati che sono accesi è sempre 27, quindi in ogni caso io ci sono sempre. Ascoltando, ciao Franco. Ciao Gianfranco, lo so, però se tu hai gli apparati accesi e non fa belli, magari uno pensa che non ci sei, ma io già lo so che sei sempre all'ascolto. Un tempo ero anch'io così, adesso da quando sono qua le radio sono spente, no? Non è che le tengo accese per ascoltare. Ho acceso verso le 6, ripeto, ho sentito Giulio con Franco Gianni e sono entrato a salutare, poi è entrato Carlo e quindi mi sono trattenuto. Adesso tra un po' intanto me ne vado nel mio mondo, che è la cucina, che c'ho da preparare qualcosa di buono stanotte, e quindi fra un po' vi lascio e vado a preparare, anche anzi vi lascio adesso perché sono le 8:15, la radio la c'è accesa e vi ascolto volentieri. Quindi ciao Gianfranco, Gianni, Bao, Franco, Gianfranco, Franco, Roberto, Carlo se sei arrivato a casa e Giulio. Ok, il cambio aspettava Giulio, a te ascolto e poi mi sposto. Ok, ciao Claudio, salutoni, grazie per la chiacchierata e evidentemente ci ascolteremo domani se coincide. Ciao Gianfranco, ben entrato. Sì, io lo sapevo che tu eri all'ascolto Gianfranco, perché quando io vado in qualche sia di altro canale tu riesci a rintracciarmi perché vedi il segnale nelle tue apparecchiature, per cui sono facilmente rintracciabile, no, non c'è problema. Riprendi pure Gianfranco, vai. Sì, ok, anch'io come Claudio c'ho degli impegni, oggi ho mangiato, però devo finire una cosa per Roberto. Niente, quindi per forza mi devo rimanere in ascolto, ecco, perché è un lavoro un po' di quelli un pochettino lunghi, anche se probabilmente è infruttuoso. Ok Giulio, saluto anche tutti gli altri che ci sono, un rilancio per Roberto e me ripasso in ascolto. Ciao, ho salutato prima, probabilmente non so se mi hai sentito perché abbiamo parlato uno sopra l'altro con Franco, sempre battagliando con quella cosa lì, qualche novità c'è Gianfranco? Ma l'unica novità che anche con Windows 7 non è voluto sentire, è uscito un messaggio che non so se sia vero o falso, però mi dice che le USB sono troppo vecchie per la gestione di certi device, però punto di domanda, è tutto lì. In effetti è un dual core abbastanza vecchio, ecco, quindi non li può chiedere di più. Io ti metto i programmi soliti di gestione, ti metto anche un cavo seriale che ho trovato sperando che vada bene. Di più onestamente con questi scarsi mezzi non si può fare. Finito adesso di clonarti tra l'altro il disco col programma definitivo. Ok, riprendete pure, io sono ascolto. Sì, gentilissimo come al solito. Vai Franco. Vai, riprendo io e me ne passo in QRT, mi guardo un po' di televisione, dai, mi guardo un po' di video di pesca qua e poi vado a cenare. Ciao Roberto, ciao Giulio, ciao Claudio, non carica Bluetooth e ce la riascolto domani se coincide. Saluto Franco e poi non so che altro c'era in questa ruota. Saluto uniti tutti anche gli amici che sono in ascolto, per me è QRT, dai. Allora, riprendo io. Ciao Gianfranco, allora grazie per essere entrato almeno a salutare, Gianfranco ci sentiamo prossimamente. E ciao Franco, salutoni anche a te, grazie anche a te per il QSO. Alle prossime, vediamo se c'è ancora Carlo. Carlo ci sei? Sì Giulio, anch'io sono ancora giù che stavo caricando, però devo salire su e vi saluto. Chi Claudio è andato via, Roberto, Giulio, Franco, se c'è ancora, tutti quelli che stanno ascoltando, nel caso ci sentiamo più tardi. Ciao e grazie della compagnia anche per stasera. Marcella, ciao Carlo, scusa che non ti ho salutato, mi sono dimenticato. Ciao ancora e spero di ascoltarci. Ciao a tutti. Ok, ciao Franco, salutoni. Ciao Carlo, grazie a te, figurati, è sempre un piacere, ci mancherebbe altro. Avanti Roberto. E anche io sono in attesa che mi chiama, comunque saluto di nuovo a Carlo e a Franco, buon tutto, buon proseguo di serata, se dovete cenare buona cena, io sto aspettando mi chiamino e basta. E tu giù cosa devi fare, mangiare o hai già mangiato? No, ancora no, ma è questione di qualche minuto è questione di qualche minuto, perché di solito, anzi diciamo che in questo periodo stiamo anche anticipando qualche minuto la sera, la cena, per cui io penso che passerà siano massimo 5 minuti, non di più, e dunque sarò chiamato per andare a cenare senz'altro. E vabbè, e tu hai già cenato, no? No, non ho cenato, ho anche un langurino, diciamo oggi ho fame, ho mangiato un pochino a pranzo, ho mangiato velocissimo perché c'era una cosa da sistemare in officina, ho fatto proprio una pausa velocissima, che dovevamo sistemare delle cose importanti. Ok, vediamo se c'è qualcuno nel frattempo che vuole entrare, avanti sul 10 che vuole entrare, se no riprendi tu Giulio. Ok, presto c'era anche Gianni doppio rum, però poi si era allontanato dalla radio, suppongo che, non so, forse che sia l'ascolto, ma forse doveva andare ad assolvere un compito che lui tutte le sere fa, che noi sappiamo cosa è. Bene, bene, bene, deve fare la tassista in poche parole, ma è nel suo interesse, non c'è problema, ci mancherebbe altro, ed è giusto anche che lo faccia, certo. Siete così, poi ho sentito anche un attimino a Luca, ma presto, Luca poi non è più rientrato, pazienza, vabbè, avremo modo di sentirlo magari domani, domani mattina, io la mattina delle volte accendo e sento sempre qualcuno, così, vabbè, avanti ancora Roberto. Ho sentito uno lontanata, non so se sia propagazione, avanti qua si vuole entrare, c'è qualcuno che parla sotto, Santiago sì, però non riesco a capire quello che dice, tu l'hai sentito Giulio? No, se non lo senti tu, figurati se lo posso sentire io. Io sono sempre nella bassa valle, dunque ho dei limiti d'ascolto, per cui non è possibile. Bisogna che sia una stazione discreta, o perlomeno che abbia, se in macchina, che abbia un'antenna performante, per cui non è facile, ecco. Va bene, dai, comunque. Io abito qua e basta, non posso dire altro. Vai Roberto. anche io avrei voluto abitare dove abita mio fratello, se abitassi lì guai, lui abitava nel punto più alto di Monte Bianchino, tutto aperto, dove c'è quella torre, hai visto quella torre che vedi da tutte le parti, da Sintino pure la vedi. Sì, già conosco la zona, ho fatto dei lavori da quelle parti, che conosco bene, bene anche la zona, anche se ormai sono passati anni che non ci vado più da quelle parti, però si sa, ma è quello che ho sempre detto a Claudio io, lui in un primo momento dice, ha perso, no, non hai perso niente, perché tu hai semplicemente guadagnato, e di molto anche, perché andando in altura, lì, sempre più in alto, sei di gran lunga avvantaggiato rispetto anche a prima, nonostante che prima avevi una posizione eccezionale, però adesso sei ancora più in alto e più vicino, tra l'altro, verso quella parte, verso il centro Sardegna, eccetera. E dunque dopo lui mi ha dato ragione, perché non poteva essere diversamente, perché perdere, per dire, non so, 5 punti S verso il centro di Sassari non è così importante quando magari dal centro dal centro della Sardegna ne guadagni 5 e anche 10 punti S, per cui penso che sia un vantaggio grande quello di essersi spostato lì in quella zona o Robè. No, ma gli ho detto anche io, a parte a 385 metri di altezza, me ne vince 100 metri, 120 metri a me mi vince, perché io sono 260, no, anzi no, vabbè, allora ci siamo misurati, togli l'antenna, diciamo 200 l'antenna a 270, 285 metri anche l'antenna, perché devi considerare, c'è il palo, a piano dove c'è l'officina è 265 con GPS, dagli altri 20 tra il palazzo e l'antenna, 285, lui è 385, più dagli un po' di antenna, altri 10 metri di antenna, tra quello, quindi quasi 400 metri, Claudio. E appunto, sì, che ti puoi immaginare, tu immaginati invece in che posizione mi trovo io sotto casa sono a 135 metri sopra il livello del mare, sì, che già 90 metri già sotto Sassari, tanto, no? Per essere chiari, poi l'antenna è messa nella parte più bassa della casa, in tutto praticamente l'antenna, la punta della mia antenna si trova più o meno a 145 metri sopra il livello del mare, ma la punta dell'antenna, però, considerando la casa e tutto, per cui non è che ho questo grande diciamo di questa grande posizione, però tutto sommato già mi difendo lo stesso. Vai Robè. Sì, alla grande, ci mancherebbe, Giulio, non è dubito, beh, più che bene, ti arrivi qua a 9.20, superi anche 9.20, poi in ricezione magari c'è delle zone un po' più limitate, per dire, rispetto ad altre persone, anche io ho delle zone che non sono eccellente, però in altre mi do da fare, dai. L'unica cosa, questa antenna si fa sentire, però in ricezione c'è di meglio, ho notato che si porta molto QRM appresso, avrei voluto fare la prova comparativa con quella che c'ha Claudio, perché quella è un'antenna eccellente, è più grande della Mantova e poi è molto più silenziosa. La Mantova riceve bene, però si porta un po' di mondezza appresso, e me ne accorgo qua io, il QRM ce l'ho minimo, sì, se no in certi giorni anche 7. Buonasera. Chi è avanti? Chi, Franco? Ciao Robè. Ciao Giulio, avanti Giulio. Ciao Franco, ben arrivato. Un po' tardino, perché fra un po' sicuramente mi chiameranno per la cena, però mi fa piacere lo stesso ascoltarti. Avanti di nuovo, Franco. Stamattina ci avevo la radio accesa, sempre. Sono salito a spegnerla e vi ho sentito. Niente. Comunque, vabbè, la Mantova non è che... Io ce l'ho, la Mantova Turbo, e ti dico che come QRM mondezza proprio non è che me ne porta tanto, però a meno che non c'è proprio che piove, che sta piovendo, diluviando, facendo temporale, ma se no è sempre a livelli zero. Avanti da te, Robè. Sono rientrato, ciao Franco. Ciao Claudio. Aspetta, riprendo io, che tanto mi hanno chiamato. Allora, il discorso mio, fra, tu probabilmente sei un po' più, in una zona più libera, io ho un sacco di roba in giro, palazzi, corrente elettrica, c'è il coso dell'Ene, la gabbina, eccetera eccetera, addirittura quando piove è meglio, io noto che quando piove si abbassa il QRM, quando non piove che si alza. Però signori, io vi devo lasciare perché adesso mi hanno chiamato a mangiare. Saluto Franco, che se l'ho sentito poco, sempre un piacere ascoltare. contatti idem Giulio e idem Claudio. Se coincide ci sentiamo dopo, ma sarà difficile, se no domani sera, se coincide sempre. Vi auguro una buona serata, buon proseguo e buon tutto. Ciao ciao, corretti da parte mia. Ok, ciao Roberto, buon corretti, buon tutto e buona cena, ci sentiamo le prossimine. Avanti Giulio. Ok, sì, nel frattempo hanno chiamato anche a me. Ciao Roberto, grazie per la chiacchierata e ci sentiamo eventualmente appena possibile, dai. Ok, riprendi di nuovo Claudio che sei rientrato, vai. Sì, sì, tanto mi stavo preparando la cena e ciao Giulio, buona cena anche a te, grazie di tutto. Sì, io lo c'è, dove sono? Dove c'è la boccia di leva, là in alto lì sono io, in quel tratto lì, dai. Ciao anche a Roberto, buonasera e ben ascoltato, vai fra. Cazzo. Sto dicendo che ciao Giulio, comunque se stai chiudendo, buon correttivo, tutto, buona cena, ci sentiamo le prossime. Sì, mi hanno chiamato per la cena, ci sentiamo, ciao fra, come l'avevo già annunciato prima, erano questioni di minuti, infatti la chiamata è arrivata. Ciao Franco, grazie per essere entrato almeno a salutare, se non altro, ciao Claudio, alle prossime, a domani eventualmente, dai, ciao ciao, chiudo, ti prendi pure fra. Ciao ciao Giulio, buona serata, buon tutto, grazie della compagnia. No, fra, ma sono d'accordo con te, io la matto faccio una vita. A me il QRM non è che me ne faccia più di tanto, sì, sale un po' il QRM, quel fruscio che senti quando sta piovendo, mentre con questa no, questa è silenziosissima anche quando piove, però non è che c'è questo grande QRM, Roberto ce l'ha sempre il QRM, ma deve essere la zona, perché lì c'è il comando dei vigili urbani, c'è l'ufficio tributi, è tutto pieno di condizionatori, di roba, capito, che gira tutto il giorno, computer e balle varie, poi c'è il traliccio, quello alto, tutto alimentato del comando dei vigili, quindi sicuramente il QRM che ha è quello, è fisso, ma noi no, e a me no, non me ne crea problemi la Mantova, io poco fa stavo modulando con la Mantova, stavo parlando con Carlo che era a Bonorva, già lo sentivo benissimo, mi arrivava benissimo la grande, poi ho commutato con l'altra antenna, chiaramente recupero un po' di segnale, ma niente di che. Sì. Ti ricordi il primo periodo che ho ripreso la modulare io l'ultima volta? Allora, qua ci avevo due antenne e ci sono ancora due antenne, addirittura adesso l'hanno piazzata, un'altra più giù l'hanno piazzata, questi telefoni e balle varie. Io avevo QRM per le antenne. Poi, cosa è successo? Che le hanno modificate, magari le hanno cambiate di frequenza e io non sento più niente, sono pulito. Invece prima mi mandavano il QRM sempre alto, capito? Invece adesso, deve essere che hanno modificato le frequenze e non sento più niente. Sì, ma sicuramente è così, fra, sicuramente è così. Io carbonati non ne ho mai avuto dei problemi, forse perché ero molto alto rispetto magari alle antenne TV, perché in via Milano c'è un traliccio proprio lì alla fine di via Milano, c'è un traliccio della Vodafone, dimmi cosa c'è, non lo so, però non mi ha mai creato problemi, l'impianto centralizzato non mi ha mai creato problemi, qua è chiaramente un'altra cosa perché non c'ho niente vicino, però lui c'è anche la Telecom non molto distante, capito, è un sacco di cose che lì cammellano tutto il giorno, computer e balle varie, ed è per quello sicuramente. Però a me la Mantova mi ha sempre dato ottime soddisfazioni, ottime, e sta continuando a darmele, per carità, è chiaro che la Gepol è superiore, però la Mantova fa il suo lavoro, non ce n'è problema, capito, fra, assolutamente. Sì, infatti io ho comprato di nuovo Mantova per quel motivo lì, perché sapevo che stavo andando a comprare un'antenna come si deve, andando a comprare, non occhi chiusi così e poi magari non andavo e ce la buttavo via, come altri stanno facendo che comprano delle antenne che poi non servono a niente, non servono. Vabbè, le antenne se tu non le proteggi, in tutte le antenne entra l'acqua, entra, però se le proteggi bene acqua già non entra per niente, perché nella mia quando l'ho smontata l'ultima volta l'ho mandata giù. E come si è diventata, le cacciamarie erano 6-7, erano, e si è rotto un filo della, quel filo che va dal PL alla carica, si era rotto, e l'ho dovuto trasmontare, l'ho tutta pulita, l'ho rifatto il filo nuovo, il pezzo nuovo del PL, dal PL alla carica, l'ho fatto, come l'ho piazzata, giù stesso, l'ho messo a rosmetro e sono riuscito con la mola, sono riuscito a portarla a uno e uno. Non si è più spostato. Sì, ma scarichi non hai tu, mamma mia, mi ha dato qua di scarichi. Ma tutto andato, poco fa mi sono affacciato fuori e c'erano fulmini, c'era sicuramente qualche temporale in arrivo questa notte. Sì, ma è così. No, io la mia, quando l'ho smontata da carbonate, l'ho fatta solo in due pezzi, ma il centrale ho tolto il nastro, ho tolto il vulcanizzante, io ho usato fascette buone della Burti, quelle in acciaio inossidabile, l'ho smontata la fascetta col cacciavite, ho girato con la mano il tubo e si è sfilato, manco sfilato, niente. Come ho fatto io. Io addirittura le fascette, io quando ho messo il vulcanizzante era lucida lucida come il giorno che l'ho messa, era lucida lucida, e come l'ho mollato, come l'ho mollato, ho girato con la mano, ho fatto tac e ho filato i tubi. Sì, anch'io ho fatto così, ma io tutta pulita, ho rimesso, chiaramente l'ho tolto tutto, poi in altro, uno per uno, però per trasportarla, io il piantone non l'ho toccato, l'ho portato intero, anche perché ero vicino, e quindi l'ho messo nella macchina, col cofano aperto, e l'ho portato a casa, capito? Mentre poi tutti gli altri tubi, tutte le altre antenne, ho chiamato un motocarro e mi ha portato tutto il fratello, a me tra l'altro non l'ha fatto il fratello di Luca col motocarro, capito? KK, e cosa stavo dicendo? Niente, poi io l'ho tutta riaperta, un altro, l'ho tutto sotto vulcanizzante, filo per filo, l'ho tutta pulita, lubrificata, ho messo tutta la bulloneria nuova, le fascette, ho usato quelle perché erano nuove, ho rivulcanizzato tutto e l'ho rimontato. Le stazionarie, io la spirale manco l'ho toccata, le stazionarie erano 1-1 a carbonati, 1-1 sui ginocchi. Capito? Tenendo conto che la carbonati era molto più alta qua, è 4 metri da terra, 2 metri sto usando questa da terra, quindi non è un problema, adesso che state questa la tiro su perché lavora in una maniera allucinante, la sentivo a Carlo, dentro Giave Santiago Onofre mi arrivava con un'antenna piccolina, con la Mantova arrivava Santiago 6, 5, 6, con questa Santiago 9, è allucinante questa antenna, è favolosa veramente. Sì, certo che a uno che se la fa comprare un'antenna gli conviene, se è così vantaggiosa, diciamo che non ha radiali, non ha niente, capita, è buona, conviene comprare una di quelle, intanto cosa spende? Anche se spende prende una manta, ma spende 140 euro, ne spende 20 euro in più, però c'è un'antenna buona. Che buona, un'antenna superiore, la parola esatta è che è superiore, è buona e superiore perché è in alluminio, è fatta bene, ed è superiore, capito? È superiore, una 7 ottavi fra, quindi non è che stiamo parlando di un'antennina, costa 180 euro, non 160, costa 180 euro più 20 di trasporto. Però è un'antenna eccezionale veramente eccezionale. Io la sto usando a 2 metri di palo attaccato al muro e 2 metri di palo telescopico. Adesso quest'estate monto il sistema che avevo prima, quello della direttrice, che è alto 8 metri, che ha il piantone da 60 a finire da 40, quindi senza diranti, perché quei tubi sono eterni e fenomenali, sono zingati, ma hanno una schedula molto robusta, c'erano le direttive attaccate lì, ma col pelo le correggiava a 50 metri di altezza, figura di 8 metri, e la monto lì, capito? Ed è veramente veramente buona, sono contentissimo, ma ti ripeto, la Mantova chiaramente la differenza che c'è tra, perché una è 5 ottavi e l'altra è 7 ottavi, quindi chiaramente il segnale aumenta sia ricezione che trasmissione, e io con la Mantova lavoro molto bene, no, non è un problema, capito? Sì, vabbè, capito, con la Mantova è ovvio che la metti la pena più in basso e rende lo stesso, per forza, è una 7 ottavi. Sì, poi ho notato, io ho visto in foto, l'ho vista su internet, è anche robusta come alluminio, come tubo, è bella robusta anche. Sì, e tampone, il primo pezzo è uguale a quello della Mantova, forse leggermente più fine, però la schedula dell'alluminio è abbastanza grossa, e poi l'ultimo tratto è uguale alla Mantova, praticamente lo stilo, lo stilo finale hanno la stessa misura, capito? Hanno la stessa misura, è molto robusta, tiene le raffiche di vento, non so quanto, non mi ricordo quanto era, ma come potenza tiene 5 kW, ma li tiene veramente, li tiene perché c'è il valo Mona 1 già incorporato, cosa che la Mantova non ha, tant'è vero che le stazionarie sono una cazzata, cioè ho 0,80, neanche uno, ma posso usare qualsiasi tipo di frequenza, no, sempre inciso le stazionarie, c'ha una resa fenomenale, fra poi c'ha gli isolatori in batinite con le barre in acciaio inossidabile, il PL non è in verticale ma in orizzontale, quindi acqua non entra perché è incassato dentro il pezzo della batinite, è fatta veramente molto molto bene, molto molto bene, io non la conoscevo la verità, a me me l'ha proposta il tecnico che ti ho già spiegato, aveva dei soldi miei perché mi serviva del materiale che poi non mi ha trovato, non è riuscito, mi ha detto cosa faccio, ti serve qualche altra cosa o ti faccio la ricarica, ti rimando i soldi, ho detto dimmi cosa c'hai che mi serve, se mi rimandi i soldi un po', guarda c'ho queste nuove antenne così e così, sono diventato concessionario ufficiale per tutta l'Italia, sei il primo che la spedisco in Sardegna, ho detto guarda facciamo una cosa, tu tieni i soldi lì a me, mandami l'antenna, io la provo, la testo, se veramente come stai dicendo tu ti tieni i soldi, anzi ti mando la differenza, perché chiaramente gli ho mandato 80 euro in più, trasporto non me ne ha fatto pagare, e mi ha detto allora io te la mando, mi fai un video montata, tant'è vero che il video che c'è su YouTube l'ho fatto io, l'ho mandato a lui l'ha un po' perfezionato e poi l'ho messo su YouTube. Quando ho visto la resa di questa antenna mi sono cazzottato, ho detto non è possibile, proprio come che cambi, no? Con la Mantova vai e attacchi questa, è come che stai attaccando un lineare, capito? E quindi l'ho telefonato subito, ho detto guarda, ti sto mandando subito la differenza, l'antenna me la tengo, veramente eccezionale, sono contentissimo, eccetera eccetera, ma ne hanno fatto già vendere, allora una ce l'ho io che forse serve a Carlo, l'altra l'ha presa un'altra persona, due li ho fatti avere io, li ho dati io ad Alghero, e una vicino verso Olbia, quindi ne ho già fatto vendere parecchie, capito? E una ce l'ho io disponibile che la devo dare a Carlo, appena si libera la monta a Carlo, se la vuole, altrimenti la do a un'altra persona che me l'ha già chiesta, capito? Capo, sì, no, già cambia anche la differenza, ho notato quando facevi lo scambio da una all'altra c'era la differenza di segnale anche, ho notato benissimo, sì, io perché sono riuscito a metterla a posto e non voglio neanche spendere tanto, però se non sarei riuscito a metterla a posto questa sicuramente l'avrei preso. Sì, ma io guarda, c'ho la Mantova anche, quindi non è che l'ho tolta, però adesso non so se la lascio, se la tolgo, la pulisco, me la metto nel magazzino e ne lascio una solo, capito? No, è giù di Barugiatino, pieno d'antenne, non mi piace. Tolgo la Mantova, questa estate al posto della Mantova, che è molto più alta, 6 metri, ci monto l'altro palo da 50C, 5, in estate a quello da 60 e tiro su praticamente diventa 8 metri. La metto al posto della mantova, la mantova la conservo, tante notte la vende tante antenne, ne hai una, io ho il commutatore a 5, quindi con un'antenna posso fare quello che voglio, no? Le radio le faccio funzionare tutte, tutto qua. Molto bene, dai, io ritorno in cucina, fra, sono entrato per salutarti e poi ci abbiamo fatto una chiacchierata. Sono già le 8:10, le 20:00, sì, le 20:10. Dai, ti saluto, fra, così abbasso l'interruttore qua perché non mi convince molto stanotte. Troppi fulmini in circolazione ci sono. Un abbraccio grande, grazie delle due chiacchiere, a presto. Ciao a tutti, QRT. Sì, anche qua qualche scarichetto ogni tanto da lontano, si sente che da lontano mi sta tirando. No. Ah, io mi sono solito, c'era mezzogiorno che stavo parlando con Giulio, stavo parlando e Franco. E poi ho lasciato acceso e sono uscito, sono rientrato adesso e sono salito a spegnere e ho sentito a loro e sono entrato a salutare almeno. Ok, ciao, ci sentiamo a domani, se coincide. Ciao, ciao, buon pranzo, buona cena, buon tutto. Ciao, grazie fra, ci siamo Gianni, a domani, ciao ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Domani vado. lo vediamo un po', secondo me sta sbagliando qualcosa. E domani quando? Allora, il pranzo. Ah, ok. Poi tu la lavoro a che ora rientri? A luna, ma non so, vedo che glielo faccio, non c'è problema. Poi sei un po' disperato. Andava, dai, hai dato il tuo numero, dammi il numero di Anzulli, lo c'è uguale l'antenna, vero? Più o meno sì. Ho sbagliato le misure piazzandola, perché un po' rompiballe, ma la volta che è tarata non ha più problemi. Chi è avanti? Chi è il VIP, avanti? Però mi sembrava la Sanvedio, avanti. No, sempre sta lavorando. Ah, capo, dai, chi è avanti? Una volta, ben volentieri lo aiuto, perché so che cosa vuol dire i CD capo per un'antenna. Ma carità, e avanti, amico mio di Porto Torres. Ehi, Alu, però Casemme. Stavo dicendo, sono qua pizzi, sono stanco, non lo so se la parola. Io mi sono dato un lavoro, un lavorettino, là. O la finisco domani mattina, perché purtroppo non hanno tempo. L'antenna è già piazzata, l'antenna TV. Lo passo nei cavi, nelle camere, e poi ho finito, gatta. Poi fai alle 9, alle 10, alle 11 avrò finito, se Dio vuole. Andare. Lavoretti così che te ne escono sempre. Se ho fatto due radio, lo sa due. Fai brutre, là, lo sa due. Qui vivono le bruci, Dipende da cosa devi fare anche. Certo che se fai la piazza e fai un televisore solo, insomma, ci guadagni, no? Non ci vai di sotto, però se fai di tre collegamenti qualcosa in più te la fai dare. Vabbè, guardate guadagnata voi. Bisogna sempre trappettare tutti i canti di lì, purtroppo noi no, non ce n'era nessuno, noi bisogna trappettare. Ah, va, vi dimmo. Pure io mi devo inventare qualcosa. Che vuoi mullare su travaglio? Sinceramente non ha più gana. Pesante, poi. Ma è d'estate un po' di meno. Ma d'inverno è molto di più. Io penso che sia, adesso, l'estate il 30-40%, d'inverno l'80-90%. Quest'anno un po' così, E vabbè, è una futti, intanto andiamo a dire che è di nana, buona di nana futti. Si è separata a mezzo, così, La settimana. Vabbè, a settimana, a mese, chi su chi è, va bene tu. Purtroppo non c'è lavoro, bisogna prendere quello che c'è. Ma io questa devo buscare la mente, vabbè, marchette poche, niente, fa il cazzo che la futti. Tanto alla fine si vive la giornata, no Luigi, tu cosa ne dici? Allora, tanto la contribuzione o no, pensione mi sa tanto che non li vediamo voi. Infatti, si diviva la giornata e boh, è tanto inutile stare lì, sì, vabbè, domani una pensioncina va bene, anche bene, se tiri avanti, perché una volta, poi una volta che hai una certa età, mica puoi fare i lavori che si fanno, ecco, qualsiasi tipo di lavoro. Va bene, dai, riprendi altro, mi sposto un attimo da camera. Quando ti arriva il Porto Torres? Vabbè, tu lo sai dove c'è l'antenna, già l'hai vista. Santiago 1 e Radio 2. Vabbè, vai a intendere un attessi. Purtroppo magari ce l'hai coperto, se era stato sul tetto te l'ha arrivato bene. Per non avere problemi meglio il vitato, va bene così, dai. Lo vesti in condominio, lui? Sì, dalla 25 sì. È per quello che hai problemi per l'antenna. Chiappa. Dai, riprendete, arrivo su. Ma la buccia d'oro, Roberto, arrivi. Non mi muovo manco lo smitter, lo sento poco. Però vedi, arriva. Sì, arriva, però se si dovesse sollevare un po' il correme non lo sento più. Perché deve essere, per il modo come è messa, da quella parte un po' negativo, se è stato sul tetto avrebbe sparato forte. Tanto che ti hanno schiacciato in pieno, chi è che è entrato dicendo ola col fischio? Se sono basso, piccolo e nero. Mi attimo muscolo lui. Sono basso, piccolo e nero, stavo accordando. Buonasera. Buonasera a lei, buona sera, e qualche cosa in più arriverà, perché magari è più favorevole Tino, non so quando arriva però Torres, ma è più favorevole di me sicuro. Io Santiago 2.5. Cioè, lui arriva bene, ma sta uscendo con 1700 watt. No. Guarda, sono con appena acceso, addirittura 10 watt modulati, cioè 10 watt portante fissa e gli altri sono modulati, quindi... Boh, anche io ho poca potenza, non ho mi sa che cosa, no? Che pagando che mi fa un lavoro con una staffa in acciaio inox? Aia, hai toccato un tasto dolente, acciaio inox non te lo posso fare. Come mai sì? Beh, ho stato un altro tipo di staffa, in ferro, va bene, acciaio inox è già differente, non ho attrezzatura per poterla saldare. Per farla un pezzo unico, non è possibile. Ce l'hai l'acciaio. Vabbè, l'acciaio lo compito. Devo solamente piegarla. Devo fare una piastra per metterci anche nel baracchino sul tetto di un camper. Ho capito, cioè praticamente dovresti piegare la staffa. Esatto, devo fare le zampe per poterla incollare, capito? Per poterla incollare sopra. Incollare, oddio, magari avvitare più che incollare. No, incollare, col Sikaflex fatto bene. E non esce, tranquillo. Non so, ma credo che staffe del genere le vengono già fatte. No, è una piastra, mi serve 45x45 e poi le zampette con lunghe quanto la piastra, capito? A L per poterla incollare sulla base del camper, dai, diciamo, sulla capota del camper. Ho capito, tu vuoi una sorta di ci da entrambe le parti con la piastra sopra, eh? Esatto. Devo mettere l'impianto di baracchino a un amico. Ho capito. Non so, non ti posso aiutare oggi, sono volentieri. Anzi, devo andare anche a ritirarmi io, che c'è la Matteo, già da una settimana. Cosa stai facendo? Ho messo la batteria nuova, comprata nuova, proprio... dopo 3-4 giorni, 5 giorni, barra 5 giorni, diciamo che mi è scesa la batteria e mi metteva in moto, quindi ho pensato che c'era un assorbimento, niente, l'ho lasciata lui per verificare un pochino se è una cosa così normale. Niente, vado con l'assorbimento, non c'era, giusto se c'è la radio accesa, ma quello era normale, il baracchino è spento, quindi non assolutamente non c'è. Niente, mi sta mettendo qualche batteria a parte. Per quella del motore, se c'è qualche cosa accesa, anche minimo, fa assorbimento. Bisogna vedere quanti amperai anche. Se l'hai messa giusta per quel motore lì? Sì, e beh, quella che ho tolto ho messo, quella che c'era si scaricava perché era vecchia, quindi l'ho comprata nuova. Va bene, no, adesso vediamo, se lo sentiremo male vediamo cosa ha fatto, tanto sicuramente dovrò scendere a prenderlo. Antonio, riprendi, che sennò rimane in bianco, non so neanche chi c'è in questo canale, fai girare Antonio. Capa, no, c'avevamo io e... ma adesso non mi viene, lo volevo dire in fretta. Io l'amico, il produttore, volevo dire in fretta, se non mi viene. E poi è entrato un attimino Luca e basta. Ciccio Bagaglio si chiama quello del produttore. Ciccio Bagaglio, ricorda. Attimo di nome, Ciccio Bagaglio. E oggi è uscito così, il primo che avevo il libro vero. Ah, così. Andare. Se riesco domenica, non lo so, ma ho i miei dubbi. Ero a San Mugheo domenica scorsa. Ho avuto il telefono, lo devi fare, io ero a Sardara, alle Terme. venerdì alle Terme, fino a mezzanotte in acqua, cosa rezza, bellissimo. Poi sabato mattina sono sceso a Cagliari, poeto, bello, sabato notte giro a Cagliari, e poi domenica mattina dopo pranzo, verso le 4 sono partito e sono tornato qua. Sono passato, allora siamo passati le Terme, eravamo forse una quindicina di macchine, credo. Sono stato il secondo, diciamo, della fila che ho iniziato a suonare, c'era gente in acqua alle 9:30 del mattino, quanti salutando. Sì, ho fatto quel giro lì, poi sono riuscito, sono andato lì a San Mugello, dove abbiamo giocato. Ho capito, ma le Terme, siete passati alle Terme e non avete visto due camper parcheggiati? No, ce n'erano parecchi, ma il tuo no, perché il tuo, vabbè, lo conosco tramite le foto che hai mandato. Ma sono passato domenica mattina io. No, io domenica mattina ero già a Cagliari. Venerdì notte ho dormito alle Terme. Bello, bello, bello. Vorrei andarci, ma devo far combaciare il tempo tra quello di gioco di mio figlio e diciamo sabato sera, perché sabato mattina non vengo a scuola, quindi insomma sono un po' legato a queste cose e mi viene male. È bello, sono stato veramente bene. Poi ci siamo fermati lì fuori, ci siamo fatti una chiacchierata, ci siamo andati a letto, posto silenzioso, bellissimo. Però fuori dai parcheggi, è perché non ti fanno rimanere nei parcheggi al campo. Siamo dovuti uscire fuori, però eravamo lì. Io sono passato lì dentro la terra, non ho perso proprio il... c'erano il camper da parcheggiare, c'erano parecchi. Sì, lo puoi parcheggiare il camper, altrimenti parcheggi, te ne scegli, entri dentro le terme, fai quello che fare, poi esci, però a dormire non ti fanno rimanere, capito? Non sapevo. Antonio, riprendi. Ma stanno parlando tutti di queste terme, non vedo come è andato. Dice che è bello, dicono. Se ti vuoi scaldare le olive, vai lì e diciamo che ti cuochi nell'acqua, ti scaldi e... Vabbè, c'è un processo un po' differente, nel senso che dovresti farti un quarto d'ora, poi correggimi se sbaglio, perché così mi hanno detto, ma non sono certo di quello che sto dicendo. Un quarto d'ora nell'acqua calda, poi ti devi spostare e fare altri 10 minuti nell'acqua un pochino più tiepida e così via. La verità, io ho questa curiosità di queste terme. È pure un cacchetti. Organizzo e faccio, va a vedere come te sta cosa. Oh sì, ma lì ci sono le piscine grandi, capito? L'acqua è a temperatura fissa e niente, poi uscire anche fuori, c'è la piscina fuori grande. Non ce n'è orario, io sono stato ad esempio dalle 4:30 fino alle 7 in acqua, alle 7 siamo usciti, alle 8:15 stavamo cenando, poi finita la cena ci siamo cambiati e sono di nuovo entrato in acqua alle 9 e sono stato fino alle mezzanotte e un quarto. Non c'è orario, la piscina è una, l'acqua è quella. Non so come funziona per il traversa, perché mi hanno detto di fare un po' di tempo nell'acqua calda, poi nell'acqua fredda, dopodiché riandare l'acqua calda, perché tu stai sempre nell'acqua calda, poi a fine serata per dire esci molle molle, devi stare stanco, invece in quella maniera lì ti purifichi, ti riprendi, non so come funziona, non sono stato lì a chiedere più di tanto, perché a me io sono, diciamo che in inverno fa piacere l'acqua calda, non sono proprio amante dell'acqua calda. Io ci sono andato anche in Austria, sempre col camper, fuori c'è la neve alta, e io dentro nella piscina si toccano un cino, un caldo bellissimo, e fuori la piccia la neve, bellissimo. La serie che ci butti la pasta asciutta si cucina, eh? Esatto, poi la notte è bellissimo perché vedi tutto il vapore che sale di queste acque termali, bellissime. Proprio, non si sta bene, certo non è un posto dove puoi andare a far casino, eh? No, però si sta bene, è un posto dove vai a rilassarti per staccare un po', è bellissimo. Vabbè. Io ho provato, c'è un po' fa, ma vorrei andarci. No, vai, vai, perché è bello. Massimo un giorno, perché due giorni ti stai già tagliando le vene. Però quel giorno lì te lo godi alla grande, perché rimani proprio... Ti consiglio il venerdì che fanno piscine sotto le stelle, che ti fanno rimanere fino a mezzanotte nell'acqua, bellissimo. Ma veramente bello. Quello lo proverò pure io, prima o poi. Non so neanche da che parte iniziare, come funzioni. Dice che fa bene quest'acqua. Sì, fa bene. Io ci vado tanti anni, ci vado. Le provate tutte e due, perché ci sono due stabili. Ci sono le terme di Sardara e poi ci sono le antiche terme. Le antiche terme sono, le hanno rifatte carine, sì. Invece le altre sono più moderne, c'è la piscina a forma di fagiolo, insomma, c'è la piscina grande interna, c'è la piscina a forma di fagiolo esterna, grande, è carina, è bella anche quella. Insomma, dove vai vai ti trovi bene. C'è questo dice, io ho sentito questo bene tutti, ho sentito dire. Ci sono a bene tutti ci sono le terme Aurora, che non sono granché, poi ci sono quelle belle a Fordogianus, ma sono un sacco care, e non è che siano, sì, sono moderne, sono belle, però per pagare me ne andrei a Sardara, che si paga un po' di meno e sono belle lo stesso. Prima o poi ci andrò. Sì, è una bella esperienza, tanto. Poi, vabbè, c'è proprio andare in questo periodo, nel periodo invernale, è una cosa, insomma, a chi è che non piace l'acqua calda, lo c'è freddo fuori, quindi ti purica nell'acqua, ti rilassi, giustamente devi staccare un pochino, va. È bello, è bello. Prima o poi proverò. No, io qualche 4-5 volte l'anno ci vado, perché proprio serve per staccare, è bello. Poi da lì ci faccio un giorno, poi da lì scendo a Cagliari, me ne vado alla Corte del Sole, me ne vado nel Poetto, insomma, sto lì a girare. Mi faccio sempre venerdì, sabato e domenica. Beh, vedi, così va bene, perché stacca la grande. Anche io quando non avevo impegni di mio figlio che andava a giocare, facevo, per dire, anche lì a Fazzona, io non ti credere, sempre andavo per lontano, partivo venerdì sera da qua, facevo sabato e domenica, cioè venerdì, sabato e domenica, venerdì notte, sabato tutto il giorno, domenica tutto il giorno. Allora, insomma, rientrava il rigenerato, ecco. Sì, e ogni tanto fa bene staccare. Non si può solo lavorare e non avere niente soddisfazione, no? Guarda, io diciamo la verità che ce l'avevo sempre in mente di prendere un altro campo, però sono partito con un budget e poi invece è andato a sollevarsi, ma perché ho visto che era migliore, ho visto le comunità, quelle varie, è una franciccia, sto sempre lavorando, prendiamocelo, è ciccia. Hai fatto benissimo, non c'è, secondo me non c'è spesa migliore, per chi ama spostarsi, per la famiglia è l'ideale, va. Camper è micidiale, bellissimo. Diciamo che troppo interessi ci sono, però la franciccia va, lo farò piano poi. Come è una razza normale, non ti credo che sia una razza, io pago 300 euro al mese, è una razza normalissima e in base a quello che posso fare, va bene così. Sì, vabbè, preso, fa il passo, insomma non fa mai il passo più lungo della gamba, quindi uno sa di casa sua, però chi lo prende, chi lo compra fa benissimo, perché ti ripeto, un ultimo mezzo per potersi spostare con la famiglia o con la propria moglie, senza magari avere figli, o che ne so, uno ha i figli grandi, se ne esce con la moglie tranquillamente. È vero, vabbè, io adesso l'ho preso forse troppo grande, perché ho 7 pulci, mansardato, ma noi siamo in 4, quindi quando sarà che mio figlio ci molla, perché anche lui adesso ha 15 anni, quindi non è sempre che verrà con noi, ci penserò e mi prendo un meccanico, un semi integrale magari, anche un pochino più piccolo. Me ne impegnativo di questo, E quando sarà, se ce ne sono in commercio alla grande, e poi ti consiglio di comprarli fuori, ti risparmi tanto. Sì, vabbè, io ho preso da Osserove, quindi mi sono affidato a loro, se no un amico che ha degli amici lì a Modena ci va una volta alla settimana, tu pensa, quindi avrei anche avuto la possibilità, solo che a noi ci arriva la finanziaria e se, insomma, abbiamo fatto quanto qua. Sì, anche io l'ho preso tu, la prossima volta non mi frega, la prossima volta vado direttamente a Modena, perché poi qua ci sono 2, 3, 4 mila euro in più, capito? Ce lo sgamo qua, capito? Non so, perché vabbè, io credo che qui a tutti faccio entrare, credo che a quanto stavo dicendo loro, praticamente i prezzi sono quelli di Modena, e poi non so se loro sono assunti o meno, capito? Non ho parlato proprio di questa cosa qua, loro so che sono un'assistenza, però vendono, ma non so se hanno anche l'incentivo di come vendono, capito? Tutte e due sono a provvigione, ancora non sono assunti, devono aprire il tutto nuovo, lo sai dove, vicino alla Tecnoalt, dietro la nuova Tecnoalt, sempre lì a Ottava, e lì diventerà dipendente il figlio e la figlia, ma anche lei. Sì, sono già andato, sono andato la settimana scorsa, sono già operativi, adesso Matteo si deve fare l'officina dietro e sono già gli uffici, già fatto, sono già andato, sono già un po' di camper già parcheggiati. Ma loro? Sono i loro? Quando avevo... Io sono andato e... Vabbè, quindi l'officina non è ancora pronta? No, ancora. Senti, sì, è venuto giù a fare, si è venuto a quel cane, vicino a me stava arrossando, a russare, rimasto un attimino da solo. Va bene, dai, io vado a masticare, ci sentiamo dopo. Ciao ragazzi, ma più tardi se ci siete. Riprendi anzu, scusa del ping pong, riprendi anzu. No, è interessante il discorso, tranquilli. Va bene, oggi dai, già nel caso se combaccia. Se romperà più tardi. Sono cose belle se riesci a farle, guarda, credi, un'esperienza. Vabbè, io ero ruotista, quindi la prima volta del campo ero una ruota e andavo lo stesso nei posti, ma un po' più limitato di come sono oggi, perché oggi ti stai portando praticamente una casa appresso, dai, quindi non ti manca niente, e tutte le comodità, non dico che nel ruoto mi mancava qualcosa, però sai, è sempre una cosa a traino, da premettere che nei campeggi è forse anche meglio. Sono cose belle, sì, a me mi piace molto uscire, andare in giro, purtroppo per mancanza di tempo. È bello il camper, perché oggi scelgo di andare in Tot, voglio andare, cosa ne so, a Villa Simios, nella zona di Cagliari, prendi e scendi, e ti fai qualche giorno lì, senza dover pagare albergo né niente. Ho sentito, non so se c'era più uno socio che voleva entrare, non so, non sono sicuro. Sono io sempre. Dopo questo passaggio anch'io vorrei volare a mangiare. Tanto più comprati il baracchino, ma comprati il camper. Se scemo tutti, non ho un camper e un baracchino. Stavo dicendo che io ci vivrei in camper, per quanto mi piace. Il camper, gancio traino, carrellino con la motocicletta dietro, adesso sono a posto. Cosa ridai? Va bene signori, ciao e buona nottata a tutti. E vedi, la pensione di quando sei anziano, quando sei un pochettino che smetti di lavorare, quella è la tua cosa. Oggi dove puntiamo? No, i miei calcoli sono già fatti, quando ando in pensione io da qua me ne vado, mi vendo tutto e me ne vado. Abbiamo già calcolato tutto con mia moglie, io l'Italia vorrei abbandonare anche la bandiera italiana, se è possibile, se mi sarà possibile, perché questa Italia ci sta uccidendo. Ciao a tutti e vado a mangiare. Boh, ciao. Ciao, ciao. Sempre fare posate, sbattere le piatti, quindi siamo già quasi pronti. Ok, buona carica, dai. Ciao, buona carica. Ok, ti lascio mangiare, dai, ci sentiamo. Io adesso se ne faccio tutto, mi trovo un po' carico e sono stanchissimo. Ciao, buona notte a tutti. Sì, tanto dai, sei già mangiato, buon riposo, buon tutto, dai, ci sentiamo magari più tardi. Ma io adesso sentiamo noi che non vado. Questo è in preparazione, quindi. Ok, d'accordo, dai, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao ciao, buona notte. Buona notte, ciao ciao.